Mi chiamo Carla Bernaschi. Sono alta 1,52 m. Peso 45 kg. Faccio ginnastica, parlo l'inglese e ho imparato un po' di spagnolo in Erasmus. Ma l'ho dimenticato quasi tutto. Ho le dita dei piedi pulite. Mi viene sempre un sonno terribile dopo mangiato. Non porto gli occhiali come dovrei. Per questo non vado al cinema. Per un po' ho avuto una camera oscura per le foto in bianco e nero, ma poi ho smesso. Ho 26 anni, 3 mesi e 14 giorni. E quando fa buio, i miei capezzoli brillano. Carla? Tesoro, perché non torni a letto? Dai, devo andare. Dai, ma ancora notte. È tardissimo. Aspetta. Ferma così. Dai. Cazzo, come brilla, non andiamo a letto, dai. Senti, mi devi aiutare? Va bene, dai, ma quando dormi, scusa? Sono agitata. Quando non lo so, se mi prendo stasera, se no... di avere dei superpoteri, di volare. Una mattina ti svegli, apri la finestra e voli via. Oppure sei in pericolo e scopri che sai volare e voli via. Se c'è qualcun altro, lo salvi. Salvi le persone. Da piccola sognavo di salvare le persone. Oppure che veniva da me uno sconosciuto a dirmi che mi aveva trovato. A dirmi che volavo e che anche lui era come me e anche molti altri. Ma non è venuto nessuno. Dopo che ho conosciuto Luca, sognavo di salvare lui. Lo salvavo da un rapinatore o da una macchina che stava per investirlo. Poi non ci ho pensato più perché avevo da fare. Ma a volte, quando la metro era in ritardo, chiudevo gli occhi e sognavo di uscire dal finestrino e volare nel tunnel velocissimo. Arrivavo sempre tardi perché Luca la mattina è lentissimo e io mi dimentico le cose, mi dimentico tutto. Sono arrivata tardi anche al giorno della mia laurea. I miei genitori mi aspettavano a due uscite diverse della metropolitana per non perdermi. Vestiti come al matrimonio di mia sorella. Mia madre aveva anche le perle della nonna, ma le ha date a me prima della discussione. Quando mi sono seduta di fronte alla commissione, stringevo la collana fra le mani, parlavo, la attorcigliavo, la torcevo, la strattonavo, la rigiravo, la pallottolavo. Poi è esplosa e per terra era piena di perle, anche sul tavolo. Nessuno ha detto niente. L'ho fatta riparare poi. Dopo la laurea sono andata dai miei, li ho abbracciati. Ti sei laureata, ha detto mio padre. Adesso sei invincibile. Aveva ragione. Come? Piacere, Germani di laurea, 16 ottobre 1980, maturità scientifica 58 su 60, laurea quadriennale statistica presso gli studi dell'Università di Roma 108 su 110, lingua parlata inglese ottimo, francese buono, ottima competenza nel pacchetto Office. Carla Bernaschi, 10 giugno 1985, maturità linguistica con 92 su 100, laurea triennale in scienze della comunicazione presso l'Università degli Studi dell'Insubria con 109 su 110, lingue parlate inglese buono, spagnolo nozioni, patente europea del computer e CDL. 2000-2003 babysitter, 2003-2004 hostess presso il polo turistico di Roma, 2004-2007 barman. O Barger. 2007-2008 traduzione commerciale dall'inglese e gestione di manifesti. 2002 interessi personali e trekking, viaggi e animali. 2002-2003 archivista presso la biblioteca dell'Istituto di Filologia Moderna dell'Università degli Studi dell'Insubria. 2003-2004 stage presso la MKK Associati Comunicazione Milano. 2005-2006 gestione della comunicazione integrata per un'associazione di locali notturni e discoteche della provincia milanese. Interessi personali, cinema e moto. E voglio lavorare in questa azienda perché è un main player del settore a livello internazionale. E voglio lavorare in questa azienda perché sento, perché so di essere d'eccellenza e di dare il massimo in un contesto di eccellenza. Voglio lavorare in questa azienda per far fruttare le mie competenze in un ambiente di altissima qualità. Voglio lavorare in questa azienda perché le possibilità di carriera sono aperte e l'ambiente lavorativo è dinamico ma informale. E sono brillante, energica e ottimista. Sono infaticabile, dinamica, positiva. Ho un'attitudine naturale al leadership. Mi trovo a mio agio nel gioco di squadra. A volte chiedo troppo a quelli che mi circondano. Non riesco mai ad arrendere. E perché chiedo troppo a me stessa? Anche quando non ci sono speranze. E me ne accorgo anche della vita privata. Ci sono sempre speranze. Vorrei sempre dare di più. Con Luca, ad esempio. Esigo troppo da me stessa, mi consumo. Non so accettare i fallimenti, insisto. Al mattino mi sforzo di alzarmi, di essere forte e non sempre ci riesco. Sento che ci stiamo allontanando, non accetto. E allora sono di essere in coma. Penso che non mi accetti più. Ci cascano sempre tutti. Io ci lavoro qui. Ah, sei il nostro tutto. Ehi, bella cravatta. Grazie, l'ho fatta fare dal Sarti. Ma va, che del mercato. Vuoi un altro fazzoletto? Ce l'ho, grazie. Ma cosa dobbiamo fare qua? Senti, non lo so. Mi hanno mandato a fare un corso di formazione alla dirigenza, team building, ma mi hanno mandato qui. Hanno sbagliato ufficio e tra un po' me ne vado, appena mi dicono dove. Team building, Sì. Beh, allora siamo soltanto io e te, ma tu ce l'hai l'MBA? Cosa? No, dico l'MBA, il master in gestione aziendale, conseguito dopo 2 anni di esperienza lavorativa, rilasciato dalle più importanti università. Aperta una schiera selezionatissima di conquistatori del mondo. Dai, l'NBA! L'NBA? Io ho la laurea triennale. Senti, ma è vero che qua stanno licenziando i dirigenti? Eh? No, dico i dirigenti, li stanno licenziando? Non lo so. Forse è per questo che mi hanno mandato informazione. Già, forse è per questo. Chissà se serve l'anzianità. Scusate, ma il colloquio era per un posto da dirigente? No. Però non si sa mai. Amore, ma l'ho preso, sì! Con altri due, non ho capito. C'è uno che dice che ha sbagliato ufficio. Sì, infatti. No, senti, chiamo io che non so che cosa. Dai, che non sono fuori. Ti chiamo io, ciao. Se la assumeremo, ne avrà uno aziendale. Presentazioni. Cannella Alfredo. Berati Tomato. Donato Tomato. E Bernaschi Calla. Io sono il vostro domatore. Camilla 83, filosofia, lezioni di italiano, gioiosa. Gioiosa? Dice gioiosa. Beh, è una bella qualità. Cosa? Gioiosa. Credi? Sì. Assumiamo. E allora? Ma non saranno gli umanisti? Eh? Sì, hanno tutti la laurea umanistica. È per questo che cercano un lavoro. Io ho una laurea umanistica. Infatti, scusa, stai cercando un lavoro. L'ha trovato. Credi? Ah, Astore Gianrico, 76. Ah, sono passate 8 ore. E già. Guarda un po' come vola il tempo a leggere il curriculum. Io faccio il primo turno. Non so. Vado io. Per me è uguale, Allora vado io. Senti, ma che senso ha questa storia di turni? È per massimizzare l'efficienza, per vedere quanto siamo bravi. Sì, ma per 2 settimane senza mai uscire. Sì, dai, sono solo 2 settimane, no? Ma anche dopo sarà così? No, dopo sarà peggio. Allora vado io. Ok, ti sveglio poi. Vai, vai, vai. Fermo! L'altra porta. Vado fuori, perché cosa c'è qui? Non posso neanche uscire. È una ragazza che ha fatto il colloquio con me. L'ha toccata e... Ed è morta. Ci cascano tutti. Già, l'ha detto anche il dematore. Morta? Sì. Usa l'altra porta. Quella lì è elettrificata, credo. No! Astore Gianrico, 76, in regia della fiction televisiva. Senti, ma tu facevi questa roba anche prima? Questa roba cosa? Questa roba di curricula. No, no, non proprio. Ti hanno messo qui per... Per questa, per la carrozzella. Sì, per quello. No, sono qui a fare il team building. Che prima che facevi? Risorse umane per 15 anni. 15 anni? Dai, magari ci arrivi anche tu. Io faccio un caffè. Aspetta, faccio io. No, vado io, vado io. A me piace. Secondo te mi prenderanno? Sì, mi prenderanno entrambi. Anche Alfredo, non mi piace. Probabilmente sarà il tuo capo. Non ho mai avuto un capo. Bravo. Sarà il tuo capo e tu non sarai felice. E ogni mattina andrai in ufficio maldicendolo un po'. E ci proverà con te appena smetterai di aspettarti. Ti sentirai lusingata e affranta, ma ci proverà. Ci proverà perché è forte e debole, l'hai visto, tutto diplomato, tutto fragile. Ci proverà, certo, e tu certo resisterai. E sceglierai i vestitini appena è primavera. non vorrai la maternità per salvare la carriera, ma la carriera non verrà. Crederai di trovare la realizzazione nel lavoro. E lui smanierà per crescere altrove, le sue parole cambieranno. Ottimismo e ferocia, ti dirà. Sì, ottimismo e ferocia. La sua presenza ti darà fastidio. Quando vi vedrete, il sesso verrà prima del resto e... Ah, non ci sarà più il resto. Poi verrà promosso in un'altra sede, tornerà anni dopo come dirigente e ti farà chiamare dalla segretaria nuova, ma non sarà più per un pompino. Io so il futuro a memoria. Che cosa c'entra? Questo qui. Secondo te ti piaccio? No, non piace nemmeno a me. Tu sei troppo vecchio. Senti, ce l'hai il telefono? Non ce l'ho. Devo fare una chiamata. Non ce l'ho. Ma tu ti hai un telefono? Qui no. Solo quegli aziendali. E tu non ce l'hai? Ce l'avevo. Quando lavoravi alle risorse umane? Io lavoro ancora alle risorse umane. Scusami. Allora, l'hai fatto questo cazzo di rapporto? Lo farò. E cosa scriverai? Senti. Non è missile. Cosa? Non fai un cazzo. Faccio caffè. Ne faccio un altro, ne vuoi uno? No. Dai, te lo faccio. Sì, dai, sì. Sarai licenziato. Ti licenzieranno. Ah, licenzieranno anche te un giorno. Ma reagisci, merda, fai qualcosa. Faccio caffè. Magari ti confermo. Ma non è un domatore, quello, dai, è il direttore della divisione bilancio. Allora scusa, perché dice di essere domatore? Forse è carenza di personale. Magari anche lui qua per un corso di team building. Beh, sarà. Prendilo, dai. Prendi cosa? Questo curriculum. E che me ne faccio? Ti senti soddisfatto, ti fa sentire realizzato cancellare i curricula, ti fa sentire pieno di brillanti prospettive per il futuro, ti fa sentire in carriera. Cosa hai fatto per essere qui? Per essere cosa? Per essere qui. Che cosa hai fatto per farti cacciare? Non mi hanno cacciato. No, hai ragione. Hai perfettamente ragione. Che bella squadra, dai, su, tutti insieme col capitano Donato, che bella squadra! Faccio team building! Non mi stupisce, guarda! Cosa? Che sei qui, che fai tutte queste cazzole cose! Cosa? Premere un bottone! Che strano, guarda, che poi ti abbandono a casa, mi sembri un impiegato così brillante, un impiegato così modello! Dai, smetti! Presto, Donato, presiedo un meeting sull'argomento del caffè! Sì, complimenti, Donato! Di tradizione e di esemplarità! Congratulazioni, Donato! I suoi rapporti sulla locazione dello zucchero ne hanno portato alla promozione, Già! E poi un corso di team building! Sai, facevo anch'io come te un tempo. E poi cosa hai fatto? Sei morto? No, mi hanno assunto. Penso che dovrebbe berlo tutto. Che è successo? Nulla, mi è caduto solo un po' di zucchero. Ti aspetta da aiuto. È un peccato però, sai. Cosa? Sei ancora così giovane. E quindi? E quindi non faticherai a trovare un altro posto dopo. Dopo cosa? Dopo che ti manderanno via. Ma abbiamo appena iniziato. Via da qui, sì, abbiamo appena iniziato, ma prima o poi finiremo. Ma avevi detto che mi prendono entrambi, sì. Già, bene. Guardami. Che competizione c'è? Beh, io non lo so. Sei di serie B. Come hai messo questa roba? Ma tu sei una di quelle, come si dice, quota protetta. Per la carrozzella, sì, dovrei, ma no. Sono solo di serie B, come te. Valiamo poco io e te qui. Non è colpa mia, no? E non è colpa tua. Vuoi un caffè? No. Dai, sicura? Sì, cioè no, non lo voglio. Dire che sono così bravo in questo non lo capisce nessuno. Beh, adesso io so fare questo lavoro. Ah già, bel lavoro, brava, potrei metterlo a curriculum. Per favore, Donato, smettila. Premevo un tasto varie volte al giorno. Bip, bip, bip, bip. Ma no, premevo molto in fretta. Bip, bip, bip. E se mi prendono? Oh, ma se ti prendono, ti prendo. Il punto è chi prendono con te. Alfredo, sei proprio sicura? Me l'hai detto tu. Sei proprio sicura che ti convenga che prendano lui? Non lo so, ma non dipende da me, no? Già, non dipende. Perché non dipende da me. Ma potrebbe. Cosa? Dipendere da te. Chi prendono e chi no. Che cosa stai dicendo? Io so il futuro a memoria. Sempre stato motivato e brillante. tutte portate avanti da persone come me. Da persone ambiziose. Che non ho fatto poi una festa. Chi sarebbe a capitare? Chi? Poi passo la porticina dell'università per conquistatore del mondo. E grazie. Siete qui perché siete migliori! Sì! In questa università non c'è altro! No! Siete qui perché siete stati selezionati senza metà! Sì! E quello là che va in tua testa! Quello là! Che cazzo si fa? E nessuno va a studiare con te, e nessuno ti ferma per strada, soltanto per chiedere a te. Ti piace il Brahms? Eh? Ti faccio un caffè? No. Sei nessun zucchero? Sì. Non mi piace. Eh? No, me lo bevo, grazie. Ma ti faccio un altro? No, non serve. Non serve, sì. No, no, serve. Lungo? Ce l'hai? È impegnato forse, non vorrei mica disturbarmi. Ce l'hai il telefono o no? Per il profitto! ma la crisi, discesa al picco, assumere, no, licenziare, il default, la BCE, l'ex-bank, la finanza privata, licenziare, una parola d'ordine ci vuole, signori, ottimismo, stringere le cravatte, stringere le cinture, perché stretto è bello e felice, ottimismo, e un'altra parola d'ordine, ferocia, la competitività, la selezione, sacrifici necessari, anche Darwin poi, i volenterosi e gli altri, la selezione è il nostro vaccino, la piramide rovesciata, la piramide dritta, due parole d'ordine voglio lasciarvi, signori, per questo anno, nuovo nuovo, tutto da affrontare insieme, due parole d'ordine, signori, ottimismo e ferocia, e per questo io vi auguro buona fortuna, idioti, tutti insieme, adesso con me, ottimismo e ferocia! Cominciano i colloqui di valutazione. Ma lo vedi com'è servile? Cos'è per rumore? Venga, le apro la porta. Non hai sentito? Qualcuno bussava alla porta. Prego, dopo di lei. Ma è molto forte. Oh, ma non ti fa schifo? Vedi, vedi come fa carriera, eh? Ma che cosa t'ha fatto? A me niente, ma vedrai a te. Come a te, Roma. Già, perché ancora non è sicuro di essere preso. Vedrai, vedrai quando lo assumono, quando lecca il culo giusto, vince la poltrona, l'ufficio indipendente, le due finestre. Anzi, vi prendono entrambi. Ma lui ti dice che perché ti ha insistito lui, perché ti ha voluta con sé. E tu ci credi, in fondo, lui fa carriera, sei riconoscente. E viene promosso in un'altra sede. Viene promosso in un'altra sede, lui è il tuo capo unità, il tuo team leader, il tuo maestro, il tuo autore. Viene a salutarti un giorno per il caffè e poi ti lascia sempre qualche cosa sulla scrivania. Attraverso i paraventi dell'open space le colleghe lo vedono, lo osservano, immaginano già un giorno uscite da una riunione, lui ti accompagna in corridoio. Siete davanti alla porta del suo ufficio, tu sei lì per andare quando lui apre la porta e... Dai, vieni qui da me. Devo finire un memo. Dai, è un sacco che ci penso. È un sacco che ci penso anche io. E sai che cosa? Lo sai benissimo. Non so proprio niente, Alfredo, ma cosa... Anzi. Ma che cazzo dici? Io so il futuro a memoria! Ma non devi permetterti! Filetti Gianluigi 77. Però magari per loro è importante. Per te? io credo che... È felice. Pensa di fare carriera. Il periodo di prova... Di poter crescere. Certamente, lo vedo sul motivo. Come sono i curricula? Pessimo. E il suo? No. Lo crede davvero? Sì. Come sono i curricula dei suoi colleghi? Quello di Carla? Beh, allora, quello... Beh, quello di Carla... Quello di Carla è buono. Buono? Sì, sì, sì. L'ha letto? Beh, ecco, io non l'ho letto. Ah, e allora... Eccolo qua. Penso che... Vai. Allora? Beh, è la stessa idea? No, sicuramente è buono e non lo so. Sì, sì. Cosa pensa dei suoi colleghi? È un'ottima squadra. Lo crede davvero? Chi assumeremo, lei o Carla? Io pensavo che i posti fossero due. E uno! Nuove direttive, chi assumeremo? Dai, me. Sembra sempre più sicuro, eh? Allora deve fare una cosa per me. Sì. Apra la porta e parli con quell'uomo. Carlo Bernaschi. E da chi è? È qui. Non la riguarda, lei chi è? Sono Davoli Luca. Senti, lo so che è qui perché la state tenendo da una settimana. Questo è un ufficio, non è mica una prigione. Mi fate parlare con lei. Se avesse voluto farlo, l'avrebbe fatto. Mi ha telefonato. Vedi, allora. E poi non l'ha più fatto. So, guarda, ci faccia delle domande. Senti, apri questa cazzo di porta e fammi parlare con la mia non ragazza. Non c'è nessuno! Vuoi andare via? Ma voglio andare via! Thank you. Sì, sono ancora due. Vado a braccio. Sembra facile, ma non lo è. Non era questo il mio lavoro. Ero il direttore della divisione bilancio, poi mi hanno messo qui. All'inizio doveva essere temporaneo. C'era movimento in alto, si liberavano posti più in alto di me. Al mio profilo serviva un periodo di formazione lontano dalla dirigenza. Era un'ottima opportunità di fare carriera, di crescere. Poi i posti in alto sono stati occupati e questo è diventato il mio lavoro. Faccio il domatore. Avanti, si deve. Prego. Vado a braccio. Uno pensa che col tempo si impari. E invece si impara che si deve andare a braccio. Quando sono arrivato qui, i primi tempi, avevo una strategia, un pensiero, ma ogni strategia è prevedibile e i colpi prevedibili sono lenti. I miei invece sono molto veloci, perché loro ne hanno bisogno. Ne hanno bisogno perché sono tantissimi. Signorina Carla, c'era un ragazzo che la cercava. E lui? Sì. No. Non lo so. Sono tantissimi. Graziosi e intercambiabili. Arrivano a orde, a schiere, con i loro vestitini ben stirati. Appena usciti dalle loro università con i loro diplomi lindi lindi, con la loro faccia da eccomi qua, arrivano convinti di avere delle capacità che valgano un posto, dei diritti che valgano un futuro. Arrivano con le protesi all'anima e alla buona speranza. Yeah. Arrivano e li mandano da me. Apri la porta. La prego. Apri la porta. L'apra. È sicuro che non c'è nessun problema? Assolutamente. E lei ne è sicura? Li mandano da me per una lezione di economia politica. In un mercato libero il costo di un bene è determinato dalla quantità della domanda. La domanda la determinano loro, che sono tantissimi. E noi abbiamo un qualcosa che vogliono, lo vogliono tutti. Il prezzo lo stabilisco io. A volte sono costretto a picchiarli. Torno a casa a notte fonda con le nocche scorticate dalle loro gengive, con le deiezioni sui pantaloni, sulla cravatta, ma non li lascio sempre chiusi qui per due settimane. No, a volte dimentico una porta aperta sul retro e li vedo uscire fuori, cominciare a respirare, assaporare la libertà. Poi li seguo fino all'angolo della strada e li vedo entrare dentro un tabaccaio. Quando escono con il loro pacchettino di Diana blu accartocciato tra le mani, non resisto. La sera conto 20 cerchietti rossi sulla loro pelle morbida. Gli dica di andarsene. Sì. Posso fidarmi di lei, è vero? Sì. Stava andando così bene. Sì. Ecco, non vorrà proprio rovinare tutto adesso. Sì. No. No, sì. Sta a lei. Ce la faccio. Sta a lei. Sta a me? Sì, sta a lei decidere. Luca. Luca. Vattene. Ma che sono? Vattene! Da un punto di vista morale io sarei un mostro, opera. C'è tanta carne e io la do. Di Luca 83 Accademia di Belle Arti. Oh, questo qua lo caccio. Che c'è? Ti piace? Sì. Questo lo assumiamo. Davoli Luca 83 Accademia di Belle Arti. Cara, che cazzo è successo? Perché non mi chiami? Perché non parli con me? Rispondi. No. Davoli Luca 83 Accademia di Belle Arti. Cara, mi dispiace. Mi dispiace per quella sera. I soldi ai tuoi li riporto io. Davoli Luca 83 Accademia di Belle Arti. Guarda, lo so che lavoro, ma ti devo parlare. Quel posto non mi piace. Dovremmo farvi leggere. A Carla? C'è qualcuno di nuovo oggi? No. Aspettavi qualcuno? No. Anche tu non li leggi nemmeno. Pensi che serva qualcosa? Così prendono noi e lui. Faccio un caffè. Fugante Carlotta 79. Timida, ambulanziera, piano vedi. Un po' ingenuo. Signorina Carla. La prego, esca. Devo fare un colloquio di valutazione con Beata. Non c'è rimasto, forse non è pronto. Io sono preoccupato per i miei colleghi. Per Alfredo? No, no, dico sul serio, ho avuto modo di osservarli. Questo anche io. Senta, lei da quanto tempo fa questo lavoro? Non la riguarda! Sì, lo so, va bene, ma vede, io sono stato per 15 anni nelle risorse umane e credo di saper osservare le persone. I miei colleghi mi preoccupano, mi preoccupa Alfredo. Ma le ferite sulla schiena erano finte. No, no, no, non no, per quel fa. Forse un po', ecco, vede. Vede. Dovrebbe stare molto attento a picchiare quando c'è una donna, sa? Come si permette adesso? No, vede, nella mia esperienza, le donne, eh? Le donne si commuovono. Non è perché si è commossa? Non lo so, ne viene una sensazione, ecco. Che cosa vuole dire? O come? La sensazione che Alfredo, ne possa essere rafforzato. Che con le sue botte Alfredo ne possa uscire rafforzato. Ecco, vede, si sta montando la testa, ci vuole poco, molto poco. Che cosa sta dicendo? Ecco. È stato lui. Lo sa come vanno queste cose, no? Lei si commuove, lo vuole curare e Alfredo riceve tutte queste attenzioni così desiderate. Lei lo sa che è già assunto, Carla lo sa che è già dentro, ha già addosso quella puzza del potere, quella maschera. Eppure Carla sa anche che lui è l'unico che è stato picchiato. Ma come mai? Perché sono frustrato, perché sono troppo bravo, perché gli ho chiesto di prendere te, perché gli ho chiesto di prendere te al mio posto, perché vuole scoparti, perché ti ama, perché io voglio scoparti, perché io ti amo. Perché la amo, eh? Ecco, vedi, io credo che lei mi abbia creato, come dire, la situazione perfetta per ottenere quello che volevo, eh? Per ottenere questo. Dai, vieni qui, che è un sacco che ci pensi. Ma che dici, dai? È un sacco che ci pensi. Ci pensi a che cosa? Lo sai benissimo. Non lo so proprio niente, Alfredo, ma cosa... Fammi una sega. Quindi lei crede davvero che... Guarda, io non lo so, le ripeto, è solo una sensazione la mia. Bene. A me preoccupano. Il colloquio è finito. Non so cosa potrebbe accadere se rimanessero insieme. Ho detto il colloquio è finito. Io fossi lei non mi prenderei. Il colloquio è finito. Gradisce un caffè? Dauri Luca, 83, Accademia di Belle Arti, Carla, appena ti assumono ti porto al mare, ti prendi un weekend e ti porto al mare a ballare. Luca, cosa scrivermi? È una cosa dolce, la faceva sempre all'inizio. All'inizio della nostra storia mi faceva trovare dei bigliettini nel cestino della bicicletta, nascosti. Io avevo paura che qualcuno arrivasse prima di me, allora uscivo dall'università a metà lezione per vedere se c'erano lettere. Davoli Luca, 83. Carla, fammi venire lì, fammi assumere. Appena arrivo ti prendo, ti scopo nel bagno. Luca, cosa scrivi? Ed ho voglia di vederlo. Non lo so perché l'ho trattato così male. È stato quel domatore, qui dopo un po' non si respira. Tutti che leggono i nostri messaggi, i suoi. È pesante. Che tatuaggio hai sulla spalla? Non ho tatuaggio. Secondo me tu hai un tatuaggio. Che ne sai? Così, una sensazione. Ti sembra una da tatuaggio? Sì. Da... Ma io penso che tu hai un piccolo tatuaggio. Senti, Alfredo, non lo è una cosa piccola, una cosa privata. Una cosa tutta tua. Ma che dici? Mi sembra che ma tu che hai... Ma che sai? Senti, ti ho osservato e mi sembri così. Mi hai osservata? Che osservatore! Ma cominciare. Che tenerone! Ma che cosa avete voi due oggi, eh? Perché non le dici delle mail? Quali mail? Sai, è successa una cosa. Cosa? Ti ha osservato bene, sai, tenerone. Delle mail? e io ho iniziato a sperare che arrivassero. Luca era tenero, dolce e imbarazzante. Dovevamo vederci. Allora correvo alla porta, ma appena sentivo un rumore sulla strada, un battito, un suono. Ma non veniva. E io non potevo parlargli, non c'era il telefono, non c'era il lei, non c'era... Niente, guarda, scusami, non c'è niente. E mi dispiace. Ti dispiace? Sì. E non sei qua. Non verrà. Che ne sai? Non verrà. A meno che... Sai, è da lì che entrano quelli che assumiamo. Eh? Sì. Leggere i curricula serve a questo, a prendere in prova la gente come noi, a metterla qui, a prendere quelli che mandano i curricula. Tu hai presente chi è che li manda i curricula? Eh? Luca 83, Carla, perché non mi parli? Non pensi che... Ho capito, ho capito! Brava! Allora, se noi segnaliamo il suo curriculum in amministrazione, lo contattano loro, fanno venire... Certo, allora, senti Carla, adesso siamo in tre, non prendono nessuno, ma se restassimo in due, se uno di noi se ne andasse, potremmo farlo entrare Luca, potremmo farlo venire qui! Ma chi se ne va, chi? Tu, Alfredo? Pensi che uno di noi se ne andrebbe così? Se venisse cacciato... Se uno di noi venisse cacciato, potremmo far entrare Luca. Segnaliamo il curriculum al domatore, lo facciamo entrare in prova con noi. Sì, cacciato, sì, uno di noi. Lo segnaliamo? Sì, lo segnaliamo al domatore, te l'ho detto, lo facciamo venire qui. Tu sei sicuro che si può? Ma sì, te l'ho detto che lavoro qui da 15 anni. Però bisogna che restiamo in due. Dobbiamo essere io e te, Carla, solo in due, io e te. O io... Certo, sì. I due che restano scelgono chi far entrare, chi far venire in prova, il sostituto, ma lo sai, no? Alfredo non vorrà mai farlo venire. Signorina Carla, tocca a lei. Piccolo colloquio di valutazione. Si trova male con... Si trova meglio con lui o con Berardi, insomma? In che senso, scusa? In quel senso, con chi farebbe coppia? Come Tim, intendi? Già, già, Tim, coppia, insomma, siamo lì. Beh, con Donato, vedo. Con Donato, quindi si trova male con Alfredo, ho capito. No, no. Perché vuole seguire Donato, perché non se la sente, forse, di stare senza una guida. Anche ho capito, non è il caso. Anche Alfredo, il Tim. Anche Alfredo. Sembrava reticente. No, no, un po', ma mi sbagliavo. Si sbagliava, ecco, in cosa pensa di poter migliorare? Debolezze, incertezze, insicurezze. Non lo so. Errori. Debolezze forse un po'. Debolezze, sì, debolezze. Sarà un po' più personale, sa? E poi? Poi niente, sono curriculum. Mi dica ancora del rapporto con i suoi colleghi. Tutto bene, eppure non ci vuole fare coppia. Non ho detto questo. Va tutto bene. Va tutto bene. Ma fa qualcosa che vorrebbe non facesse, me lo dica. No, no, nulla di specifico. Forse... Ha fatto qualcosa di sbagliato? L'atteggiamento, a volte... Qualcosa di sbagliato, l'ha fatto? No, non proprio di sbagliato, solo a volte un po' l'atteggiamento, come... Ha fatto qualcosa di sbagliato? Penso che comunque faccia... L'ha fatto. L'ha fatto! No! L'ha fatto. No. Sì. Io sono un morto che si muove. Poco, ma si muove. Sono del tutto privo di qualità e di punti di interesse, come dipendente e come persona. Ce ne sono un sacco di persone così. Io sono una di quelle. Prima no, era diverso. Ero giovane. Ero crudele. Se fossero esistiti gli NBA ne avrei avuto uno. Avevo abiti gessati, mia moglie mi comprava le cravatte alla Upin, ma sembravano di seta. Se mi chiedevano dove le prendevo, rispondevo: l'ho fatta fare dal sarto. Merito di mia moglie, sa? E allora ci credevano altri. Ero una risorsa utile premiata dall'azienda per la sua utilità. I premi erano soldi, cestini, viaggi buoni, spesa alla COP e ogni tanto un colloquio di lodi da parte dell'amministratore delegato. Ottimismo e ferocia. Era una risorsa utile. Mi dicevano ottimismo. Ed ero ottimista. Mi dicevano ferocia. Ed ero feroce, lo ero molto. Mi dicevano corri e io correvo. Mi dicevano più in fretta e andavo più in fretta, più in fretta, più in fretta, più in fretta, più in fretta. Se vai troppo in fretta capita che cadi, cadi e ti fai male, tanto, tanto male. L'azienda lo sa che l'hai fatto per la tua ferocia, per la loro, ma nessuno ti ha detto di, ma nessuno ti ha ordinato a, nessuno ti ha detto di diventare un problema! Ti lascio un posto, un lavoro che non puoi più fare. E loro lo sanno, aspettano. Promuovono quei più giovani. Tu resti fermo sulle tue rotelle, sulla tua rabbia. La tua voce cambia, perde sicurezza. Le tue cravatte diventano delle Lupin. Ehi, bella cravatta, sì, l'ho fatta fare dal sarto, ma vai nel mercato. Tutta roba che non ti tocca più. Tua moglie si stanca in fretta di spingere la carrozzella. Il tuo lavoro è sempre lo stesso. Tu no. Tu sei morto. Anche se ti muovi. Poco. Intanto, lo sai, no? Lo sai cosa fanno quelli che sono ancora vivi, eh? Si guardano, crescono, cambiano, hanno un corpo, un no. I tuoi risultati fanno pena più di te, ti convocano a colloquio, di nuovo. Noi sappiamo. Ti dicono, noi capiamo benissimo, ti dicono. Ma ti dicono anche. Tuttavia, risultati subottimali. Ti dicono anche i tempi. Finisci circondato in un mare di ragazzini. I ragazzini sono aggressivi. I ragazzini sono preparati. Capiscono subito come vanno queste cose. Diventino uno contro l'altro. Loro. Ci sono così tante cose che vogliono loro. Vogliono se stessi. Vogliono il futuro. Si vogliono una vicenda. Si vogliono. Vuoi solo restare a galla? Vuoi essere loro? Vuoi sostituirli prima che sostituiscano te tu? Vuoi solo restare a galla in un mare di ragazzini? Speri che si annichino l'un l'altro. Ma tanto lo sai che affonderai prima tu. Non è colpa loro. Non è colpa tua. Navigate solo nelle stesse acque pessime. Loro. Ci sono così tante cose che vogliono nuotare e nuotano loro. E tu cosa fai? Tu fai il morto. detto che avresti potuto rivederlo. Appunto, non posso. Certo che puoi. Esci. Guarda da lui. Hai fregato. Non ho fatto nulla. Hai fatto fare una cosa che non dovevo fare. Senti, ho fatto la cosa, l'unica cosa utile a entrambi, a me e a te, a tutti e due, no? Forse è forse in modo... Scorretto. Sì, scorretto. Forse in modo scorretto. Senti, ti vuoi tornare? Ho bisogno di muovermi. Era scorretto. Sì, forse era scorretto. Ma che cosa potevo fare, eh? Che cosa potevo fare? Non conoscevo il regolamento, non lo sapevo. Sì. Ho fatto l'unica cosa ragionevole. Sì? Per uno di noi due. No, per tutti e due. Per uno di noi due. Per tutti e due, provarci. L'unica. No! Ti ho detto, dovevamo essere presi io e te. Senti, a me dispiace. Ne prendo uno solo ora. Uno. Uno? Uno, me l'ha detto il domatore. Essere presi tutti e tre e farlo entrare. No! Senti, mi dispiace, ok? Mi dispiace per Luca, però non lo sapevo, non conoscevo il regolamento, non potevo saperlo, nemmeno tu. E poi, senti, non sai cosa c'è? Che tutta questa storia di Luca a me sembra una grande stronzata. Ah sì? Sì, se ti fossi interessato veramente. Cioè, saresti corsa da lui, saresti uscita fuori. L'hai fatto solo per te, per massimizzare le chance. Massimizzare le chance? Sì, massimizzare le chance, come me. Per essere presa. Credevo che fossi dalla mia parte. E tu da che parte sei? Dalla nostra. Non c'è una parte nostra. Dalla tua. Anche io. Siamo in due. Uno è detto. Dove lavorate? Che c'entra? Prima di essere qui, eh? Che da... Dove lavorate? Beh, che c'entra? Dove lavorate? Ho detto alle risorse umane. Alle risorse umane. Sì, sì, per 15 anni ero un dirigente e ora mi resta solo questa cravatta. Di Sartoria. Che fai? Cara. Non potevi saperlo. Era il regolamento. Sì, era il regolamento. Sì, non potevo sì, sapere. Me l'ha detto il donatore. E sai che mi ha detto? Cosa? Fermo. Mi ha detto chi l'ha scritto quel regolamento. Quello delle assunzioni, dei periodi di prova. Sai chi l'ha scritto? L'ha scritto un dirigente. Carla. situazione. È stato un periodo di grande crescita. Io posso ritenermi soddisfatto della mia selezione. Senza il suo aiuto non ce l'avrei. Sono stato imparziale nella mia crudeltà, ma non parlerei proprio di aiuto. Erano